ad alta voce. Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Decima puntata. Nick era stanco della sterile discussione. Forza, disse, andiamo a dare un'occhiata là dentro. Ci precedette dall'altra parte della strada e spinse la lurida porta a vetri dell'agenzia di viaggio Taj. Si apriva su una grande stanza umida, così grande da far saltare subito agli occhi che una parete era stata demolita per unire due vani. Su un lato c'era un lungo tavolo ricoperto di formica, dietro il quale era seduta una fila di ragazze. Alcune indossavano il churidar, altre abiti occidentali. Quando Nick spinse la porta, si sentì il suono metallico di una campanella. Al nostro ingresso, una delle ragazze aggrottò la fronte e ci indicò le sedi di fronte al tavolo, ma prima che ci potessimo sedere, un uomo di mezza età, con un completo marrone, chiamò in bengali dalla camera accanto. «Mandali qua, parlerò io con loro!» Ci esaminò mentre ci avvicinavamo alla sua scrivania e quando ci fummo accomodati si rivolse a noi senza alcuna espressione e con un forte accento londinese. «Cosa posso fare per voi?» Ayla assunse istintivamente i modi della gran dama indiana e disse «Avremo bisogno di una piccola informazione, per favore». L'uomo dall'altra parte della scrivania non si lasciò impressionare. Alzò un sopracciglio e chiese «In quanti siete? Trattiamo solo con gruppi». «Siamo diretti a Calcutta», gli risposi in bengali con il mio sorriso più accattivante. «Ci potrebbe dare un'idea? Qui gli affari si fanno in inglese», mi interruppe. «E io non posso dir nulla finché non mi dite quanti siete». «Ma lei non è molto gentile, non le pare?» disse Nick. «Essere gentile non è il mio mestiere», rispose quello. «Mi dica», gli chiesi tranquillamente, «non c'è mai stata una scala qui?» «Cosa?» sbottò quel tizio. «Volevo solo sapere se qui c'era una scala che fu distrutta da una bomba». «Fuori di qui!» urlò. «Mi avete fatto perdere abbastanza tempo!» «Mi stia a sentire», riprese Nick. «Se non state attenti vi butto fuori!» «Non mi piace questo posto», disse Ayla sprezzantemente. «Me ne vado comunque». Ci alzammo in piedi tutti insieme e ci dirigemmo verso la porta mentre l'uomo fissava le nostre schiene. «Scommetto che gestisce una casa d'appuntamenti al piano di sopra», bisbigliò Nick ad alta voce mentre uscivamo. Sentii il muggito dell'uomo, ma prima che potessi dire qualcosa eravamo fuori. Attraversammo di nuovo la strada e io mi girai per dare un ultimo sguardo alla casa, cercando di immaginarla con un grande buco scavato lì davanti, come l'aveva vista Tridib. Anche Nick si fermò e, indicando l'agenzia Taj, disse «Però bisogna riconoscere una cosa a quel tipo di gente. Quando arrivano non possiedono praticamente nulla e, in men che non si dica, mettono in piedi una piccola, prospera attività. Se disponessi di un modesto capitale, entrerei nel mercato dei futures. Ho degli amici che hanno messo insieme delle fortune. Basta sapere che cosa comprare e quando». Per la prima volta non volli nascondere la mia irritazione. «Non dovresti pensare a trovarti un lavoro», dissi, «prima di cominciare ad accumulare una fortuna con i futures?» Prese la mia domanda seriamente, o almeno così sembrò. «Il problema è», rispose, «che nel lavoro qui non gira abbastanza denaro. È decisamente stupido Per cominciare, i commercialisti devono avere all'incirca 15.000 sterline. In America, in Kuwait, ce ne vorrebbero 2 o 3 volte tante. Allora perché hai mollato il tuo lavoro in Kuwait? Ne avevo abbastanza, disse arricciando il naso. Da un punto di vista professionale non era una situazione molto conveniente. Pratiche di gestione superate. Avevo intenzione di mettere su qualcosa per conto mio, ma il problema è che devi avere un socio d'affari arabo che finisce sempre per interferire. Vuol dire che un bel mattino hai piantato il tuo lavoro e sei venuto via, dissi io. Devo essergli sembrato scettico perché mi lanciò una lunga occhiata gelida. Sì, è quello che ho fatto. Davvero? Beh, se fossi al tuo posto, credo che mi cercherei un lavoro prima di pensare al mercato borsistico. A un tratto Ayla infilò una mano sotto il braccio di Nick. Le diede uno sguardo furtivo. Le sue labbra erano pallide ed era molto arrabbiata. Adesso io e Nick dobbiamo andare. Credo che tu sia grande abbastanza per fare da solo i tuoi acquisti. Girò sui tacchi e lo trascinò via lasciandomi dov'ero, ammutolito. Quando ebbero percorso alcuni metri, lasciò il braccio di Nick e tornò indietro correndo. Non mi piace che tu sia sgarbato con i miei amici, mi disse quando fummo faccia a faccia. Farai meglio a telefonare prima di venire di nuovo a Stockwell. Potrei non esserci. Passarono 15 giorni prima che rivedessi Ayla. Ci incontrammo la vigilia di Natale al 44 di Leamington Road. Mrs. Price ci aveva invitati a dividere una semplice cena di famiglia con lei, Nick e May. Ayla arrivò molto tardi. Si precipitò in casa quando Mrs. Price e May stavano per servire la cena. Era sorridente, radiosa, indossava degli stivali di cuoio al ginocchio e una gonna corta. Si scusò frettolosamente con ciascuno di noi e, con mio sollievo, sorrideva quando si avvicinò a me. «Ma dove sei stato tutto questo tempo?» sussurrò. «Perché non sei venuto a trovarmi?» Poi si girò ad ammirare la tavola apparecchiata. L'argenteria e il cristallo brillavano alla luce delle candele e al centro della tavola luccicava delicatamente una grande coppa di frutta. Quando fummo seduti, May ci servì la minestra e Nick versò il vino. In quel momento Ayla, guardandoci come se non stesse più in sé, batté le mani e gridò: «Ho buone notizie, non indovinerete mai!» Mi sentii gelare mentre la guardavo volgere verso Nick il suo viso luminoso. «Ho trovato un lavoro!» «Magnifico!» disse May. «Dove?» «Con l'Organizzazione per la Difesa dei Bambini», rispose Ayla. «Non pagano molto, ma è già qualcosa». Senza respiro per il sollievo, dissi: «Ma ero convinto che tu odiassi i bambini». «Per la verità, non devo vedere le piccole creature», disse lei. «Devo soltanto difenderle. E non è molto impegnativo, visto che significa soltanto riempire registri e compilare documenti». Scoppiammo a ridere. Nick propose un brindisi e tutti levammo i bicchieri. Poi Mrs. Price, con la sua mano malferma e la faccia minuta e rugosa, tesa in un sorriso, disse: «Dal momento che siamo qui riuniti abbastanza tranquilli, se non fate caso a una vecchia pettegola, penso che dovremmo bere alla salute del ministro della giustizia Chandrashekar Datta Chowdhury e di mio padre, Lionel Trisosen. Infatti, non saremmo qui se non ci fossero stati loro». Di nuovo alzammo i bicchieri, questa volta con aria solenne. Di nuovo Nick vuotò il suo bicchiere e poi, rigirandolo fra le dita e articolando fiaccamente le parole, disse: «Senza dubbio, il nonno Trisosen ha fatto una bella vita. Deve essere stato fantastico girare il mondo come lui. Un grande spettacolo alla Dickens in palcoscenico. Non era mai accaduto niente di simile prima e non potrà capitare mai più. Si girò verso di me e si strinse nelle spalle con aria afflitta. E a me che cos'è toccato, continuò. Il maledetto vecchio Kuwait. Ecco che cosa succede quando si nasce troppo tardi. Tuttavia, disse May con delicatezza, mentre ci toglieva il piatto, penso che dovresti ammettere che il nonno Trisosen avrebbe fatto del Kuwait qualcosa di più di quanto abbia fatto tu. Il Kuwait, sbuffò Nick. Non lo diresti se sapessi come vanno le cose laggiù. È un bubbone pronto a esplodere. Ecco perché me ne sono andato finché c'era ancora qualcosa da cui andarsene. May sbatté i piatti sul tavolo e fissò Nick per un tempo che sembrò un'eternità. Poi si chinò verso di lui e disse: Nick, non sarebbe l'ora di piantarla con le menzogne su questa faccenda del Kuwait? Ero disposta ad assecondarti quando si trattava di una menzogna per gli estranei. Ma hai cominciato a crederci anche tu e non dovresti, davvero non dovresti. Dovresti andare a testa alta e dire la verità. Sei stato educato a dire la verità esattamente come me. Dovresti guardare la gente negli occhi e dire loro quello che hai detto a noi. Dovresti dire che il tuo principale non aveva simpatia per te, che aveva imbastito un'accusa di appropriazione indebita contro di te. Sempre che fosse imbastita. Nick si alzò in piedi, incerto sulle gambe, scagliò il tovagliolo sul tavolo e inveì contro May. Sei una puttana bugiarda, disse. Non mi sorprende che tu non ti sia mai sposata. Chi poteva desiderare di trovarsi ogni giorno a far colazione con quella falsa onestà e quegli occhi spalancati? Si rivolse a Mrs. Price per dirle che saliva in camera sua e che non intendeva mangiare altro. Ma Mrs. Price era profondamente addormentata, con il mento incassato nel collo. Uscì dalla stanza senza una parola e un attimo dopo Ayla gli corse dietro. May sembrava assente, fissava la fiamma della candela con uno sguardo vuoto. Mio Dio, bisbigliò, che cosa ho fatto? Un quarto d'ora dopo, Nick e Ayla tornarono giù insieme. Svegliammo Mrs. Price e May portò il tacchino e lo tagliò. Per un po' Mrs. Price parlò di Calcutta, ma nessuno degli altri disse una parola. Quando finimmo di mangiare il tacchino, May spense le candele. Sembrava una sonnambula in una cerimonia rituale. Portò il pudding di Natale e accese la fiamma, ma io fui l'unico ad applaudire quando il brandy divampò in una chiara fiamma blu. Dopo aver mangiato la nostra porzione di dolce e aver tolto i piatti, Mrs. Price ci condusse di nuovo in salotto e tirò fuori i bicchieri da brandy per tutti. Bevvi il mio il più in fretta possibile e mi alzai per andarmene. La ringrazio molto, dissi a Mrs. Price, evitando di sembrare imbarazzato. È stata una magnifica serata, un vero Natale inglese. Niente avrebbe potuto essere più piacevole, è stato bellissimo, ma ora è meglio che vada, altrimenti perderò l'ultima metropolitana. Sorrise scrutandomi di traverso con i suoi occhi miopi e mi tese la mano. Sono lieta che ti sia divertito, disse. Devi tornare. Mentre prendevo la sciarpa e il cappotto, May andò alla finestra e guardò fuori nel giardino. «Non credo che potrai andare in ogni caso», disse. «Hai visto che tempo fa là fuori? C'è una bufera, morirai di freddo». Mi misi al suo fianco, imbacuccato in sciarpa e cappotto. Non riuscivo a vedere molto lontano. Turbini di neve sbattevano contro i vetri della finestra. «È meglio che resti», disse May. Credo che dovremmo restare tutti. Non posso tornare a Islington in mezzo a una bufera. Mi guardò con aria supplice, come se volesse farmi capire che lei non poteva restare se me ne andavo io. «Va bene», risposi, «resto». «Ma dove vi sistemerò?» chiese Mrs. Price. «Non c'è spazio sufficiente per due persone nella tua vecchia stanza, May, né in quella di Nick». «Lo so io», disse May con un tono soddisfatto. «Loro due possono dormire nello scantinato sulle due vecchie brandine da campo. C'è anche un'antiquata stufetta, così non avranno freddo. Saranno comodissimi». «Per me va bene», disse Ayla, rivolgendomi un sorrisetto complice. Annuì con un cenno del capo e il mio cuore cominciò a palpitare per la speranza. «Benissimo, sistematevi voi», disse Mrs. Price. «Quanto a me, ho 80 anni e me ne vado a letto». May si fermò fuori dalla stanza e noi la seguimmo. Spalancò la porta nascosta dietro il ripostiglio e accese la luce. C'era un leggero odore di umidità, ma non di muffa. Era molto più pulito di quanto mi fossi aspettato. In un angolo erano mucchiate pile di giornali, in un altro erano accatastati valigie e bauli. May indicò le brandine da campo nascoste dietro le valigie e io e Nick le tirammo fuori. Impiegammo un po' di tempo prima di trovare il sistema per aprirle, ma quando furono convenientemente distese si rivelarono assai comode. Nick e Ayla andarono di sopra a prendere sacchi a pelo, asciugamani e pigiami, e ben presto lo scantinato assunse un aspetto caldo e invitante. A quel punto May e Nick ci augurarono la buonanotte e se ne andarono. Quando furono usciti, Ayla si voltò a guardarmi. «Ecco qui», disse sorridendo. «Siamo di nuovo sotto la nostra vecchia tavola a giocare alle case». Annuì e mi lasciai cadere sul bordo di uno dei letti. Mi tremavano le ginocchia e avevo le mani sudate. Ayla mi voltò la schiena e si tolse la giacca e il maglione, sempre parlando a bassa voce di May e di come aveva rovinato la serata. Indossava ormai solo una leggera camicetta. Scorgevo il profilo dei seni e persino l'ombra del neo sopra il capezzolo. «Fa caldo qui dentro», disse slacciandosi i bottoni della camicetta. «Credo che non avrò bisogno del pigiama». Si girò per prendere un asciugamano e i suoi occhi si posarono su di me, accucciato sul bordo della brandina. «Ma che cos'hai da fissarmi?» Rise stupita, «ti volterò di nuovo la schiena». Si girò e si tolse la camicetta. Adesso potevo sentire il suo odore. Profumava di sapone e di sudore fresco. Vedevo la pelle morbida della vita stretta delicatamente dalla cintura. Si avvolse in un asciugamano e si tolse la gonna. Intravedevo la peluria delicata lungo le sue gambe. In quel momento, drappeggiata nell'asciugamano dalle ascelle alle cosce, in equilibrio su una sola gamba, con la pelle lucida come morbida seta scura, sembrava una creatura totalmente diversa dalle donne cui avevo fatto visita insieme ai miei amici, la più perfetta delle forme umane. Non potevo starmene seduto, immobile. Mi avvicinai di soppiatto e le mise una mano sulla spalla nuda. «Leva quella mano, è fredda!» Si girò su se stessa e non so cosa vide sul mio viso che le fece morire la risata sulle labbra. «Ma cosa ti succede? Perché mi guardi così?» Fece un passo indietro per guardarmi, poi corse tra le mie braccia stringendomi. «Mio povero caro!» La sua voce era piena di compassione. «Povero, povero caro!» Tese una mano e la passò sul mio viso. Solo allora sentì le lacrime che mi scorrevano lungo le guance. Non lo sapevo, disse. Sei sempre stato il fratello che non ho mai avuto. Mi dispiace. Se lo avessi saputo non avrei agito in questo modo. Davvero, credimi, non importa, dissi io. Venne a sedersi vicino a me e con un dito mi sfiorò il collo e la schiena. Mi dispiace, disse davvero, mi dispiace con tutto il cuore. Non c'è nulla di cui tu ti debba dispiacere, dissi. La colpa è soltanto mia. Udimmo il rumore di una porta che si chiudeva da qualche parte al piano di sopra. Ayla balzò in piedi. Devo andare di sopra un momento, disse con tono di sollievo. Devo fare due chiacchiere con Nick, è molto turbato. Sentì il calore del suo corpo quando si chinò a darmi un bacio sul mento. Vai a dormire, disse, sarò di ritorno tra pochi minuti. Un attimo dopo udì il ticchettio soffice dei suoi passi sulla scala. Giacqui disteso sulla schiena, fissando il soffitto. Mentre le ore passavano, continuavo a vedere Ayla come mi era apparsa il giorno in cui era scesa dalla macchina a Gole Park, 18 anni prima. Quella mattina in cui mi aveva fatto precipitare nell'età adulta, dimostrandomi per la prima volta e per sempre l'assoluta disparità dei nostri bisogni. Poiché non fece ritorno nello scantinato quella notte, seppi che una parte della mia vita di essere umano era finita, che non esistevo più se non come cronaca.